ha un effetto, drammatico per tutti gli italiani e in particolare per i soldati, per chi è sotto le armi, perché un intero esercito viene abbandonato senza nessun tipo di ordine al proprio destino. Questo fa sì che mentre i soldati presenti in Italia tendenzialmente cercano, almeno e spesso riescono, cercano di gettare le armi e le divise e tornare a casa, tutti i soldati che invece sono schierati ancora nei Balcani, non soltanto in Jugoslavia ma anche in Albania e in Grecia, rimangono abbandonati a loro stessi senza ordine e vengono, nella stragrande maggioranza dei casi, catturati dai tedeschi e deportati in Germania. Sono circa 600.000 i soldati italiani che finiscono internati in Germania, di questi 450.000 provengono dai Balcani. Quindi la stragrande maggioranza dei soldati presenti nei Balcani in realtà finiscono deportati in Germania, come internati militari, che è una formula per evitare che vengano considerati prigionieri di guerra e che quindi abbiano l'autorizzazione a ricevere i pacchi della Croce Rossa, insomma, che siano protetti dalle convenzioni di Ginevra. Dunque gli altri che non vengono, diciamo, che non vengono deportati in Germania, alcuni di loro riescono in realtà a resistere ai tedeschi, almeno provano a resistere militarmente ai tedeschi. In alcuni casi queste resistenze finiscono male, come nel caso di Cefalonia, che forse avete sentito, è molto conosciuto, dove circa un mese dopo l'8 settembre i tedeschi conquistano l'isola e massacrano i soldati rimasti, fucilando tutti gli ufficiali, ma lo stesso succede in altre zone della Jugoslavia. C'è un unico caso che è particolarmente straordinario, proprio perché è l'unico, dove, in Montenegro, dove si crea una vera e propria divisione partigiana che, alleandosi con i partigiani locali, cioè con i loro nemici fino al giorno prima, i partigiani di Tito, riescono a resistere ai tedeschi e a appunto creare questa divisione che combatte fino alla fine della guerra, insieme ai partigiani jugoslavi. Si chiama Divisione Garibaldi. Io su questo ho fatto un documentario che si chiama Partisani, che ho già mostrato una volta qui a Siena. Dunque, però, cosa succede nelle aree che ci interessano? Succede che sostanzialmente si crea un vuoto di potere. Per circa un mese e mezzo, nell'area centrale dell'Istria in particolare, non tanto sulle coste che vengono quasi subito presidiate dai tedeschi, ma proprio nella zona centrale. C'è un vuoto di potere, cioè non c'è più l'esercito italiano, ma di fatto anche lo Stato italiano scompare in qualche modo. E dato che queste sono zone a prevalenza slava, dove c'è già un'attività partigiana slava molto, jugoslava molto forte, di fatto cadono, sfuggono da qualunque tipo di controllo, in parte vengono, diciamo, amministrate da una specie di una cosa che si chiama potere popolare, che è l'equivalente del CLN, diciamo, è l'espressione politica dell'esercito partigiano jugoslavo. Questo potere popolare ha sede a Pisino, che è una località proprio nel centro dell'Istria, e il comando partigiano praticamente emana l'ordine di catturare alcuni italiani che sono considerati responsabili di crimini di guerra o comunque di repressione contro le popolazioni slave nel corso dei 20 anni precedenti, quindi non soltanto negli anni della guerra, ma anche negli anni precedenti. Si tratta in realtà di poche decine di persone che vengono realmente arrestate, processate e in seguito gettate nella foibe di Pisino. Le foibe, immagino che lo sappiate, ma lo ripeto sempre, sono delle cavità carsiche, dei buchi sostanzialmente nella roccia che sono tipiche di queste aree, di quest'area geografica. Quindi questi, diciamo, presunti criminali, nel senso che vengono processati, diciamo, in maniera sommaria la maggior parte delle volte, vengono appunto fucilati e gettati in questa foiba che c'è appunto lì a Pisino. Ma in realtà la maggior parte delle vittime di questa fase sono circa, si parla circa di tra le 500 e le 700 vittime. Di questa fase che viene definita le foibe istriane, perché appunto soltanto nell'Istria avvengono queste violenze, appunto la maggior parte di queste vittime non è vittima delle decisioni del potere popolare dell'esercito partigiano jugoslavo, ma di una sorta di sollevazione popolare degli slavi oppressi per 20 anni, sostanzialmente che si ribellano in maniera più o meno spontanea. e che quindi in qualche modo colpiscono e uccidono persone che sono colpevoli, spesso magari semplicemente di rappresentare lo Stato italiano, che per molti anni ha perseguitato, diciamo, la popolazione slava. Quindi spesso finiscono uccisi, non so, insegnanti, presidi, o direttori delle poste, o industriali, ad esempio, il caso dei proprietari della miniera di Labin, che è vicino a Fiume, che vengono catturati e linciati sostanzialmente dai loro stessi minatori, in questi giorni. Ecco, questa fase termina in realtà, nel giro di un mese e mezzo, con la conquista del territorio da parte tedesca, cioè i tedeschi, come avviene nel resto d'Italia e anche nel resto della Jugoslavia. Conquistano il territorio, prendono possesso del territorio e in questa zona in particolare lo fanno con un'estrema violenza contro, perché appunto era un territorio che si era reso sostanzialmente autonomo, si era creata una sorta di repubblica partigiana. Quindi reprimono questa repubblica partigiana con estrema violenza, uccidendo circa 5.000 persone nel corso di questa operazione di riconquista. Ora non voglio fare il gioco dei numeri, non è che dobbiamo dire sono morti di più di qua o di più di là, non è questo. Ma è giusto per avere l'ordine di grandezza e capire di cosa stiamo parlando, cioè in quale contesto avvengono questi fatti, no? Appunto, un mese dopo queste prime foibe strane ci sono 5.000 morti in quegli stessi territori, che però sono morti slavi, uccisi dai nazisti che riconquistano il territorio. Ecco, nel periodo successivo si crea questa zona di operazione litorale adriatico, che è un'area, diciamo, amministrata, militarmente direttamente dai nazisti, dove, sostanzialmente gli italiani che sono in divisa sono volontari che combattono all'interno delle forze armate tedesche, cioè sotto agli ordini delle forze armate tedesche. Qui non c'è la Repubblica Sociale, che come vedete infatti è nell'angolino di là, ma c'è proprio un controllo diretto dei nazisti. Quindi appunto quello che avviene in questi 2 anni è responsabilità dei nazisti, sebbene ci siano diversi italiani che combattono nelle forze armate tedesche, ma ci sono anche diversi italiani che invece entrano nella resistenza, e che quindi si pongono al comando dei comandi jugoslavi, anche quando formano unità partigiane interamente italiane, come in alcuni casi.